orizzontale. Perché è orizzontale? Perché scala è male stare dietro tanto a me. Sì, sono due, però sono tutte due multibanda. Coprono una e una modulare, l'altra è un'antenna tipo ragno multibanda. Sì, la modulare è bella, però fatta quello di sicuro. Lo so, ma se devi lavorare in un decorso a... a un aeroporto ad esempio, 60 metri, quella lì. Sì, infatti, se la può Perché sono più felice di lui? sul suo palo, la colonnina più sul suo palo. Oh, a lui lo dico, a me non gli faccio niente, né al computer né alla televisione. E non sta male proprio l'antenna con lei. Sì, mettiamo l'antenna e mettiamo il cavo. Sono tante cose, se non è stata regolarsi così. Perché è la mia cosa fatta. A me è capitato di vedere il terminale di cavo d'antenna sul televisore in cui volutamente non hanno collegato la lastra. E quindi distruggi a gogola tutti dai tribunisti da qualche cosa, ma lo schermo serve soprattutto per affermare il tutto. Proprio quando vedo che ha fermatura o calza in maniera volgare, diciamo. Però se la gente non la collega, un cavolo di fumo, capisco. Ma se mi sono accorto, sia uno che all'altro, si rifagli l'antenna nel tempo. No, mi vanno guarda a buttare, a rua. Se no, questo non mi occupavo di più, io mi occupavo di guarda, non posso stare in giro, io posso stare in giro, guarda a guarda, io posso stare in giro, ma non è che non posso parlare di più. Non so, Natalina, con la gente che c'è in giro oramai io ci ho rinunciato anche solo a fare. Non c'è speranza, quindi, anche se le volte la testa le è dentro non trovi niente, quindi è stato del vuoto. Quindi, le potresti anche comprare la casa nuova, ma non ottieni niente. Natalina. Sì, che ti ho inviato come l'ho attaccata io, ma io adesso l'ho attaccata a quel ferro da stendere. Però più o meno potresti usare quell'attacco lì, magari fatto diversamente, attaccato tipo palo a palo. Va. Sono, viene una qua, 12 metri dovrebbe essere. orientarsi come antenne tutti questi due segnali che tra l'altro sono anche piccoli, ma non sono stati solo metro, però poi tanti di quegli elementi che sono anche a fronte per gli incidenti. Cercalo qua, a quello che lo posso buscare. Sì, su internet l'ho visto anch'io, no? Mi stavo documentando, vendono gli elementi di vetroreggia, si vuole assolutamente vetroreggia, niente carbone. No, poi lì, nessuna proprio l'antenna, aspettata, ne ho visto un video dove il vento le ha aspettate, ma 20 a 160 km orari. E sto facendo il tutto per non disturbare, perché se io ho un po' di quadrati qua, io sono come faccio. Dice che se si parla al computer, a questo si deve fare un audio, la televisione non si vede più, se si chiamava lo scopo. Sì, poi da sotto magari non si trova quasi nemmeno. chilometri? Sì, saranno una trentina. Sì, buongiorno, buona domenica, che ho fatto. Vediamo un po' più, eh? Ciao, ciao Giotta Giulio, ciao Natali, buona giornata a tutti e due. Allora continuate, sto ascoltando, non sono dell'umore giusto oggi. Prendete pure, ho voluto solo salutare. Ciao Gianfranco, prendi. Ciao Giulio. Ciao Giulio, buona domenica. Esagerato, ma tu dai un po' d'allegria. No, non è possibile. Non è possibile, purtroppo è deceduta mia madre, per cui l'umore non è nei migliori. Dopo ci sentiamo, dai. Saluto ancora, le prendi pure la tariffa. Alle prossime. Sì. Di nuovo tutti e due, ciao ciao. Natalia, ma non si può mettere il segnale? O sei facciata di diciamo? Sì, lo metto con quello tasto davanti, so che mi fa per mettere quello a fare la parte principale, quello che mi mette più e ce ne so. Sempre mettere il capo, PL, fagna cantante. corso di corrente all'applicatore si fa per nostro segnale, quindi si dà parecchio di sistema, bisogna fare le prove in diretta, in antenna, per il sistema. Sono stato attraverso di la e comunque mettere sempre quelli non a larga banda ma quelli regolati, quindi vedere con il guadagno e a posto. Poi ripeto, il discorso sempre stare sempre lì, questo ci ha distrutto su tutti i canali o su alcuni canali, perché se ce l'ha su tutti i canali allora lavora sempre un po' attento. Canali, quello non è dell'altro parato. Uno giù, non sa come fa, ma quello con l'antenna, quello è l'unico. Quando si apre la porta, si riesce a parlare, si può fare lo sport. Secondo me si fa male con l'antenna. A parte non si ammazza. Avrà un amplificatore regolato almeno 25 dB. Che appena premi è chiaro che fa bene, perché c'è un'amplificazione secondo il modello regole sono fare, c'è la campana che può fare di tutto di più. E poi andare allo schermo di sintesi ce ne vuole, soprattutto di tutto. Figurati se c'è un apparato con HF o UHF che lo vuole continuare. Probabilmente quella è una tua immagine anche se è fatta. A colorine questo. E mi sono perso a questo punto. Guardi, quando si tocca gli faccio l'antenna come si vede. Perché questa antenna è piazzata male. Siccome gliela fa il figlio, mi sa che è il campione. Io gliela volevo fare nuova, cioè ha sentito quello che c'era sul figlio, che non sentiva, magari che ci ha fatto un calo, cosa ne so. Se non vedo, non posso, stavo da avanti. Beh, allora a quel punto c'è solo una cosa, che tu devi uscire, o quello che devi uscire, una volta, o quattro volte, cioè fare il turbo, mi dice a tutti. Se vuole la penna io la compro, la piazzo, la faccio un impianto regolare, e questo è un regalo. Se no, se la tengo così, c'è tutto qui, chiami chi vuole, e se l'ho prestato, si presta una denuncia per calunnia. Io sono sempre un tutto lì. A un certo punto, a essere gentili fino a un certo punto, va anche male, no? Eia, all'altro gliel'ho detto lo stesso, no, il padrone di casa, siccome questo è inquilino, no? Il padrone di casa ha detto assolutamente a non toccarla l'antenna. E mi sono chiesto anche a quello di controllarla, se c'è da cambiare qualcosa, gliela cambiava così mie, fatti un po' più gentile di così. Ma infatti, quando lo ragionamento io dico che ci vogliono di più fatti. Se uno accetta il disturbo non è colpa tua, è colpa tua, alla fine non è il figlio non può lavorare con il computer, non c'è niente, tu lo apri il computer, non lo so, io ho sentito che si può entrare in mouse, non si blocca, non lo fa lavorare, perché se si blocca il controllo, si sa, il mouse, non lo so se è possibile. È possibile, se non c'è neanche le piante adesso qua a norma, quindi senza terra e senza niente, e che stia pure attento che non si becchi, il giorno che si becca una scossa ci rimane attaccato sul serio e non può dire niente, perché quindi questo c'ha sicuramente l'impianto elettrico non a norma, senza massa, c'ha l'antenna collegata, come collegata magari anche con qualche fase che se ne sta lì. Di tutto di più, ma cosa vuole la gente, non capisco. E questo ha detto che è tecnico lui, qua per esempio massa non ce n'era, ho dovuto rifare l'impianto io, qua in questa casa, la massa a terra gliel'ho messa io, è stata, qua era tutto un macello, me ne sono accorto che addirittura il cavo non era regolare, perché era un altro lungo, Senti, è molto semplice, sono collegati direttamente alle radio, figurati, sono proprio è tutto fuori norma, talmente grosso, che forse già dovresti stare tu la tua radio a vedere, e anche magari così la presentazione non funziona, a vedere se glielo fanno fare gli impianti. Norma dovrebbe essere, non lo so, è nel palazzo a fianco a me, è tutto allora, siccome il vino che c'era prima di questo mi ha fatto piazzare l'antenna, siccome non potevo salire sul tetto, il tetto mi ha piazzato l'antenna qui, io ho dato le antenne già piazzate, siccome me le ha piazzate nel suo palo, quindi l'antenna sua è più bassa con l'antenna. Quello fiato la norma, tutte quelle cose lì, qualcuno deve pagare. Io sono convinto che anche se parlo con questo, con un vasco, come tu quando ha detto, anche con cinque, non disturbo. Perché se loro mi misurano non disturbo con cinque vasco. Sì, tu però qua ti l'ho lavorato, no? Tanto, guarda, sei sempre su questo canale. Quindi non ci sono problemi rispetto a un'altra parte. Prendi il mio piccolo lavorato, sì. Guarda, e poi fare una fortuna l'amore. Cambia l'etichetta, lavorazione, gli estremi, tutto qua, dopo di te. Non c'è tempo, capito? Però deve chiamare lui, non chiamare lui, chiamare lui in caso ci siano problemi, se li paga, perché voi li avevano a cagliare, e quando si muovono, qualcosa devono recuperare. E va ripetuto. E poi tu li hanno rogati normali. Se si mette a fare l'automaria lo stesso con la rogata lì. E lui è... perché si fanno battine tutti i canali, tutti omologati a Mancetto. Ah, non è detto. Non è detto una famiglia. Alcuni sono molto resistenti anche alla popolazione. Quindi uno ultimo che viene e se non fa come ripeto, se ha un pochettino anche l'antenna, a parte che se risolve anche molti problemi qual genere, se no è fare un sicuro. Quello colorato non c'è. E sa, l'ala 48, l'ha colorato. Quello di Giacomo va anche in macchina. E c'è già nello sacco, l'ha colorato lì, lui va in macchina. Compri anche in macchina a prendere. Forse non volevo prendere uno più serio. L'importante è che sia colorato. Sì, ho lavorato tanto, ho fatto la ragione, però il punto è una famiglia, adesso, quante volte lo senti, le faccio vicino, io ogni tanto faccio una spazzolata, anche mentre stiamo fermando qua, ma la domanda è vuota, rispetto a quello che c'erano 10-20 anni fa, vuol dire che siamo soli parlando, quindi... Il problema non è neanche esiste quello del plato. Guarda che esiste, perché se parlano quello del 23 con la malorata di qui, fanno un fatto di slatto, si può dire, il canale 23. Specialmente mia Maria, quando lui parla, e poi la malorata da qui così. Perché dopo l'antenna che fa poco bene, no? Oppure fanno un po' gasare. No, lo so, io non gli devo fare quello che vuole. Ma con questo non lo so, non c'è fa nessuno, perché non c'è in questo canale, non si può. Non si mette a mancella, c'è sempre anche quelli degli altri canali. E questa è una difficoltà, vuole ripeto, e quindi hanno tutto la cifra bravi e portano. Io ho fatto le cose da una manovra con lo pubblico, ma non c'è una manovra, quindi mi ricevo male. Poi, se sono lì. Va bene. Comunque già ci sono dimostrati un po' più generali. E non sono neanche chiari, sono abbastanza comuni. Ti lascio a perdere due Midland lì. Io ti faccio una mano, magari. Cioè, sono anche tanti adesso in giro che sono imparato la cosa. Un po'. E te lo chiedo a Marco, che lui ha lavorato in me a tanti e dico qual è il più selettivo, voilà. Quelle lì poi sono anche stazioni abbastanza lontane, sono più vicine al muro e iniziare a parlare col muro. Ciao, buona domenica. Oh, i lasciamo perdere, loro stanno sulle divine e basta. E io dico troppo. Ciao, ciao. Signor Savino!